Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan, che osserva l'attualità e legge le notizie attraverso un filtro speciale, quello dell'animalità. Cerchiamo di raccontare attraverso i fatti di cronaca che avvengono in Italia e nel resto del mondo il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali, intendendo con questo che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 738, parleremo di Food for Profit, il docufilm che sta avendo un enorme e inatteso successo nelle sale e nei social. Parleremo di come von der Leyen ha tradito la campagna per il superamento delle gabbie negli allevamenti e di come la Corea del Nord sta proibendo la presenza dei cani da compagnia e delle sue motivazioni per questo. Torniamo poi a Trento, daremo la parola a un attivista dell'assemblea antispecista che vive quotidianamente il faticoso impegno di difendere gli orsi dai loro persecutori. Infine ci sarà spazio per una ricetta vegana cruelty free a cura del tosco vegan chef Gabriele Palloni. Il sound della puntata è di Gianluca Masala. Speriamo di avervi incuriosito. Dedichiamo questa puntata ai vitelli morti nel camion carico di bestiame che ha preso fuoco qualche giorno fa sull'autostrada A5 Torino Aosta tra Volpiano e Settimo in direzione Torino. Il mezzo trasportava animali vivi, il conducente è riuscito a liberarne qualcuno, ma per altri non c'è stato niente da fare. Gli animali che verranno recuperati andranno comunque al macello. Benvenuti nel carnismo, un sistema economico e alimentare che non conosce la pietà. Potremmo dire che c'è uno spettro che si aggira per l'Europa. È il filo che lega l'industria della carne, le lobby del cibo, dell'agricoltura, della zootecnia, degli allevamenti e la politica, con funzionari strapagati ma costantemente sotto pressione, influenzati dalle multinazionali per ottenere deregolamentazioni, politiche meno stringenti, meno lacci e lacciuoli, ai danni prima di tutto degli animali, ma poi dei cittadini europei, della loro salute e dell'ambiente in cui viviamo tutti noi terrestri, umani e non umani, selvatici e non. E poi c'è un altro spettro che si aggira per l'Europa, un docufilm scomodo che sta facendo tremare queste lobby perché è irriverente, irrispettoso e mette il dito nell'occhio di relazioni di potere ben oleate e molto silenziose che si sono sviluppate e ingigantite fino a oggi senza che ce ne rendessimo conto. Avrete sicuramente sentito parlare di Food for Profit. Si tratta dell'evento cinematografico del momento. Un docufilm firmato dalla giornalista Giulia Innocenzi e dal filmmaker Paolo D'Ambrosi. Un lavoro d'inchiesta durato 5 anni che svela il legame tra l'industria della carne, le lobby dell'agrobusiness e il potere politico. Racconta l'impatto che gli allevamenti intensivi hanno sulla salute e sull'ambiente e anche i maltrattamenti sugli animali e lo sfruttamento del lavoro. Da lunedì scorso, Food for Profit è salito sul podio dei film con la migliore media di occupazione sala, conquistando anche la vetta di primo film in Italia per occupazione sala. Il documentario, che ha una produzione e una distribuzione completamente indipendenti, ha al centro i quasi 400 miliardi di euro della PAC, la Politica Agricola Comune, la maggior parte dei quali, si racconta nel film, diversamente da quello che la maggior parte delle persone credono, va a finire agli allevamenti intensivi, che maltrattano gli animali, inquinano l'aria, l'acqua e costituiscono un pericolo per future pandemie, Per distribuire questo documentario, i due autori hanno bussato a diverse piattaforme, ma nessuno ha aperto loro la porta. Temevano tutti ripercussioni legali. Gli autori ne hanno preso atto e si sono auto-organizzati. E non è stato difficile. Grazie al passaparola e alla pressione dei cittadini, Food for Profit è diventato un caso. Sono già state superate le 500 proiezioni, con numeri da record, anche sui social. Gli account totali raggiunti tra Instagram e TikTok sono oltre 3 milioni, con più di 6 milioni di impression. Piacciono le immagini registrate con telecamera nascosta dagli infiltrati negli allevamenti e al Parlamento europeo. E le persone escono dalla sala dopo aver visto il film arrabbiate, indignate, scosse e chiedono: ma noi cosa possiamo fare? Da anni, anche grazie alle inchieste televisive di Report e anche quelle di Giannini in Indovina chi viene a cena, le persone si mostrano turbate. Non sono serene riguardo a quello che hanno nel piatto, c'è disagio, preoccupazione, rabbia per tutto quello che accade alle nostre spalle, a nostra insaputa. Perché è vero che il sistema di morte che fa nascere ogni anno 80 miliardi di animali terrestri per poi ucciderli in giovane età, sono stime della FAO, e che mette in conto inquinamento, antibiotico resistenza, polli putrefatte, mucche bastonate a morte, si riconferma grazie alla passività e alla complicità dei consumatori finali. Ma la colpa non è loro, cioè non è loro diretta responsabilità. Tutto questo sistema non è progettato o voluto dal basso. È un sistema appunto progettato altrove, sviluppato altrove, in luoghi inaccessibili, molto opachi, muovendo interessi nascosti e secondi fini a noi sfuggenti. Non ci saremmo mai aspettati questo entusiasmo da parte del pubblico, dichiarano gli autori. Forse è arrivato il momento storico di mettere in discussione il modello di produzione del cibo, che costituisce un quarto di tutte le emissioni di gas serra, a partire dal modo in cui trattiamo gli animali. Speriamo che, in vista delle elezioni europee, il documentario serva per mettere al centro del dibattito il finanziamento agli allevamenti intensivi, per destinare invece i soldi di noi contribuenti verso un'agricoltura veramente sostenibile. Per vedere Food for Profit basta andare sul sito foodforprofit.com, dove si trova un calendario con tutte le proiezioni costantemente aggiornato. I cinema che coraggiosamente hanno deciso di proiettare il film sono sold out e le proiezioni si stanno diffondendo a macchia d'olio. Filo rosso lega questa prima notizia alla seconda. Ancora lobby zootecnica e ancora le sue conseguenze. È stata tradita la campagna End the Age Cage. Ancora oggi, oltre 300 milioni tra suini, galline, conigli, oche, vitelli, quaglie e anatre soffrono in gabbie all'interno degli allevamenti dell'Unione Europea, vivendo una vita fatta di crudeltà e sofferenza. Molto tempo fa parlammo di una campagna europea su iniziativa dei cittadini europei, chiamata End the Cage Age. Si trattava di una campagna per il superamento dell'uso delle gabbie negli allevamenti di tutta Europa, con controlli e limitazioni anche per animali importati dall'estero. Questa non è la nostra lotta, noi siamo naturalmente per il superamento degli allevamenti tout court, ma non possiamo trascurare nessun cambiamento in atto nelle condizioni di allevamento e ci sembra importante che ci siano anche movimenti dal basso che fanno richieste di più livelli. La campagna End the Cage Age era stata possibile grazie al sostegno di una coalizione di 170 associazioni e aveva raccolto 1.400.000 firme certificate, quindi un grande successo di partecipazione, un grande successo proprio dello strumento di partecipazione alle politiche europee. La Commissione europea aveva assunto l'impegno formale a presentare, entro la fine del 2023, una proposta legislativa per vietare l'uso delle gabbie negli allevamenti europei. Adesso però, dopo le recenti proteste nel mondo contadino, la Commissione europea ha tradito il suo impegno a mettere fine all'allevamento in gabbia e la campagna ha presentato ricorso presso la Corte di giustizia dell'Unione europea contro la Commissione UE. Tra l'altro, proprio nell'ottobre scorso, l'Eurobarometro della Commissione europea aveva evidenziato che con una schiacciante maggioranza di 9 cittadini su 10, circa 400 milioni di persone ritiene in Europa che gli animali non debbano essere allevati in gabbie individuali. Ma proprio quando la Commissione stava per presentare la sua proposta legislativa per mettere fine all'allevamento in gabbia, la presidente von der Leyen ha fermato il processo dietro le pressioni della lobby della zootecnia. Ecco che siamo di nuovo alla questione delle pressioni industriali sulla politica. Questo voltafaccia è arrivato a discapito del fatto che i funzionari della Commissione avevano già completato tutti i preparativi e le valutazioni e le consultazioni e nonostante la proposta includesse addirittura un solido sostegno finanziario per assistere gli allevatori durante la transizione verso sistemi senza gabbie. Misura che trova il favore di tante associazioni animaliste e ambientaliste che ritengono che i sussidi pubblici dovrebbero essere indirizzati proprio per sostenere allevatori che transitano a sistemi più rispettosi. End the Cage Age era stata la prima e finora l'unico percorso partecipativo europeo dei cittadini a ottenere dalle istituzioni europee un chiaro impegno formale. La Commissione, con la sua retromarcia, non ha tradito quindi solo i 300 milioni di animali che ogni anno soffrono in gabbia negli allevamenti, ma anche lo strumento di partecipazione democratica, uno strumento introdotto proprio per garantire ai cittadini una maggiore influenza sui processi decisionali dell'Unione. Se la Corte di Giustizia si esprimerà in favore del ricorso, la Commissione sarà obbligata a pubblicare la propria proposta legislativa, seguendo una tempistica chiara e ragionevole, e a rendere pubblico il proprio dossier. Tutte le associazioni e le persone che intendono fare pressione a favore dell'abolizione delle gabbie possono mostrare il loro supporto all'azione legale End the Age Cage sui loro canali social, taggando la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nei loro post. @ von der Leyen. Adesso di McDonald's. È una multinazionale da decenni al centro di polemiche per più ragioni: la strage di animali, la qualità bassa del cibo, i danni che produce sulla salute di umani e ambiente, il modello usa e getta, i rifiuti e molto altro. Questo è uno spazio, come sapete, animalista, antispecista e vegan. Per noi McDonald's non è mai stata un'opzione percorribile, ma ultimamente alle sue storiche connotazioni negative se ne è aggiunta una ulteriore. A ottobre, infatti, la filiale ebraica del colosso americano aveva dichiarato di aver regalato 100.000 pasti all'esercito di Tel Aviv, offrendo uno sconto poi del 50% a tutti i soldati. Questo aveva generato rabbia in diversi paesi arabi, tra cui la Turchia, il Libano, l'Egitto, dove alcune sedi della catena sono state anche vandalizzate durante cortei di protesta. La filiale israeliana del McDonald's ha un suo grado di indipendenza, ma questa indipendenza è stata messa in discussione da una vasta campagna di boicottaggio contro le aziende e le multinazionali che sostengono Israele, che è molto viva soprattutto nei paesi arabi e coordinata in tutto il mondo da una rete a guida palestinese che si chiama BDS, Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni. Ecco le motivazioni. Le azioni di un affiliato di McDonald's non possono essere isolate dalle operazioni mondiali dell'azienda. McDonald's Corporation, con sede a Chicago negli Stati Uniti, possiede il marchio McDonald's ed è responsabile di garantire che il suo affiliato non sia coinvolto in comportamenti che danneggino la reputazione di McDonald's, inclusa qualsiasi associazione del marchio, con gravi violazioni dei diritti umani. Questo si legge sul sito della campagna BDS. Secondo Reuters, a febbraio effettivamente la società ha ampiamente mancato le stime di Wall Street. Il direttore finanziario di McDonald's, Ian Border, sembra che abbia detto pubblicamente che le vendite del gruppo diminuiranno in conseguenza del conflitto in Medio Oriente. Le campagne di boicottaggio, sostengono le organizzazioni che le conducono, sono a volte l'unico strumento che ha il consumatore per indebolire economicamente e finanziariamente le aziende legate a paesi che non rispettano i diritti umani. Per gli attivisti l'obiettivo è portare le imprese come il McDonald's a convincersi che potrebbe costar loro di più essere in buoni rapporti commerciali con Israele, facendo affari con l'occupazione, piuttosto che non esserlo. Ma il governo israeliano ha definito la campagna una minaccia esistenziale e strategica, invitando i governi occidentali a condannarla apertamente. Il boicottaggio è uno strumento complicato da gestire, ma resta un fatto: in un mondo dominato dal dio denaro, colpire il portafoglio delle aziende sembra essere l'unico modo davvero efficace per contrastare lo strapotere di alcune aziende multinazionali. E il caso McDonald's è l'esempio più diretto del fatto che il boicottaggio può funzionare. We'll be right back. del Nord, qualcosa di incredibilmente vetusto sta forse accadendo. Qualcosa che urta fortemente con il condiviso e dilagante desiderio di condividere parti della nostra vita con animali non umani. Secondo la fonte di Pyongyang del Sud, la pratica di tenere cani come animali domestici è iniziata in Corea del Nord all'inizio degli anni 2000. Prima di allora i cani erano rari e venivano tenuti solo da alti funzionari del regime per proteggere se stessi e le loro proprietà dai ladri. Il numero di quei cani è gradualmente aumentato e recentemente c'è stato un notevole aumento di razze straniere di cani, come Pomerania e Shih Tzu, che erano un evento raro in Corea del Nord. Questo cambiamento si allinea con un sentire generale, globale e mondiale, forse dovuto anche al progressivo inurbamento delle persone per la progressiva distanza dalla nostra stessa animalità e quindi alla nostalgia che proviamo per la natura, per le sue componenti animali, selvatiche, a noi simili e fraterne, ma anche ormai così lontane. Ma questo non piace al regime di Kim Jong-un. Trattare un cane come un membro della famiglia che mangia e dorme con la famiglia è incompatibile con lo stile di vita socialista e deve essere rigorosamente evitato. L'attacco non si ferma a questo aspetto. La pratica di vestire i cani come se fossero esseri umani, di mettere graziosi nastri tra i capelli, di avvolgerli in una coperta, di seppellirli quando muoiono è un'attività borghese, uno dei modi in cui le persone ricche sprecano denaro in una società capitalista. Spiega in un messaggio l'Unione Socialista delle Donne Coreane, riportando alle sue associate il pensiero del regime di Kim Jong-un. Dunque, il governo di Pyongyang vieta di tenere i cani come animali domestici, con l'unica eccezione che ciò avvenga come forma di allevamento per la carne o per la pelliccia. Secondo quanto riferito dalla fonte istituzionale, il crescente numero dei proprietari di cani ha motivato questo nuovo editto e si invitano tutti ad adeguarsi prima che si inneschi un movimento di massa per eliminare la pratica. Il Daily NK ha raccolto la testimonianza di un proprietario di cane sconvolto dalla decisione del governo. Cosa dovrei fare con il cane che amo così tanto? Non posso semplicemente ucciderlo e non posso semplicemente abbandonarlo, avrebbe detto. Adesso, quando si parla di Corea del Nord, però, bisogna sempre considerare che, da paese non allineato e anticapitalista, questo è in costante conflitto anche con il suo vicino Corea del Sud. Ed esiste una propaganda e una contropropaganda, per cui le notizie vanno sempre prese un po' con le molle e andrebbero verificate con molta attenzione. Bisogna anche tenere presente che la Corea del Nord, proprio per questa sua posizione anomala, lancia spesso e volentieri provocazioni e anatemi anticapitalisti, condannando lo stile di vita occidentale. Certo, non si può spezzare la millenaria amicizia tra cani e umani con un editto, questo è chiaro e condiviso. E non si può mettere la retromarcia alla storia se non facendo dei disastri. Però qualche cosa in effetti stride nella crescente umanizzazione dei cani, nel loro assoggettamento alle regole del mercato, alla loro mercificazione. Non solo vestirli, pettinarli, profumarli, ma soprattutto moltiplicarli in razze, trasformarli fisicamente, esteticamente, farne degli status symbol. Questo è effettivamente qualcosa che grida vendetta. I cani pagano un prezzo altissimo in questo commercio. Come alcuni veterinari onesti ci hanno insegnato, i cani pagano la razzificazione con la loro salute compromessa. E poi non tutti i proprietari sono uguali. Molti fanno del loro meglio, ma altrettanti maltrattano e non hanno la minima conoscenza di quello che è un cane. Dunque Kim Jong-un ha torto, ma ha anche qualche ragione. E il fatto che sia un dittatore e che le sue motivazioni siano distantissime da noi non deve impedirci di riconoscere che per alcuni aspetti le sue analisi devono far riflettere. Lord, this must be it, 'cause there's no mankind. Yet they are saying Love is the best thing. Just giving up. Abbiamo chiesto al tosco vegan chef Gabriele Palloni di dedicare la sua ricetta della settimana alla Corea. Ma una Corea che ci piace, quella vegana, animalista, cruelty free, senza derivati animali. Sentiamo la proposta del nostro chef. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Dalla Corea la più famosa preparazione vegetale, il kimchi. Verdure fermentate dal sapore deciso e piccante, una ricetta ricca di probiotici e molto versatile, può essere impiegata in varie preparazioni ma ottima anche come piatto unico. Gli ingredienti per un chilo di kimchi sono 600 g di cavolo cinese o cappuccio, 120 g di daikon, 100 g di cipollotto fresco, 50 g di carote, 30 g di erba aglina, un peperoncino, 10 g di sale fino. Per la salsa di riso, 80 g di acqua, 10 g di farina di riso e 10 g di zucchero di canna. Per la pasta di zenzero, 35 g di cipolle bianche, 15 g di zenzero fresco e uno spicchio di aglio. Lavate il cavolo e tagliatelo a pezzi piuttosto grossi. Sistematelo in una pirofila e cospargete col sale. Mescolate e fate riposare per 30 minuti. Successivamente mescolate ancora e lasciate riposare per altri 30 minuti. Nel frattempo preparate la salsa di riso, stemperate la farina di riso e lo zucchero con l'acqua e versate in una casseruola. Fate addensare a fuoco lento mescolando con una frusta fino ad ottenere un composto gelatinoso. Togliete dal fuoco e lasciate raffreddare. A parte sbucciate il daikon e le carote e tagliate il tutto a listarelle sottili. Pulite e affettate i cipollotti e tagliate l'erba aglina a pezzetti di circa un centimetro. Infine preparate la pasta di zenzero. In un mixer unite la cipolla, lo zenzero pelato e l'aglio. Tritate fino ad ottenere un composto omogeneo. Unite la salsa di riso e il peperoncino, il daikon, le carote, il cipollotto e l'erbaglina e mescolate bene il tutto. Recuperate il cavolo, sciacquatelo e scolatelo bene. Versatelo in una ciotola e unite il resto delle verdure, mescolando per amalgamare bene il tutto. Sistemate il kimchi in una pressa o un vaso da fermentazione e lasciate fermentare per almeno una settimana in un luogo fresco, lontano da fonti di luce diretta, oppure in frigorifero per almeno 2 settimane. Trascorso il tempo necessario potete consumare il kimchi, oppure conservarlo in frigorifero dove continuerà a fermentare. Gabriele Palloni è autore di alcuni libri di cucina. L'ultimo, edito da Newton Compton, si intitola Se vuoi vivere sano, cucina vegano. Come abbiamo annunciato nella puntata scorsa, la provincia autonoma di Trento ha appena approvato una nefasta legge ammazza orsi. Molte voci autorevoli si sono levate per denunciare l'orrore etico e scientifico e la profonda ferita democratica rappresentata da questa disposizione, evidentemente motivata solo da ragioni di tipo politico e propagandistico. A noi convince il punto di vista dell'assemblea antispecista. Ci sentiamo vicinissimi alle attiviste impegnate a Trento tra mille difficoltà per ostacolare o almeno per documentare la persecuzione della popolazione degli orsi in quell'area geografica. Diamo quindi volentieri la parola a Carlotta di Assemblea Antispecista e della campagna Stop Casteller per un commento sulla giornata di lunedì 4 marzo. Lunedì 4 marzo, come attiviste della campagna Stop Casteller siamo scese in piazza a Trento, fuori dal Palazzo della Regione, all'interno del quale si discuteva e infine si approvava il disegno di legge della legge ammazza orsi. Quest'ultima prevede l'uccisione di 8 orsi all'anno per la durata di 3 anni. Questo numero è stato preso da una stima di ISPRA come numero massimo di orsi che possono essere prelevati dai boschi senza mettere a rischio di estinzione la popolazione orsina. Una popolazione che è già minacciata dal bracconaggio e dall'isolamento genetico. Due elementi che rendono il rischio di estinzione quanto mai concreto. A questi andrebbero ad aggiungersi le uccisioni comandate dalla PAT, che grazie a questa legge verranno eseguite in estrema rapidità, senza la possibilità di far ricorso, come è successo martedì 6 febbraio quando Sonny, M90, è stato ucciso poche ore dopo la firma dell'ordinanza di abbattimento da parte di Fugatti. Alle associazioni animaliste è stata negata la possibilità democratica di opporsi, di fare ricorso al TAR. Ricorso che probabilmente, come gli ultimi ricorsi fatti dopo le ordinanze di abbattimento, sarebbe stato vinto. E la possibilità di un confronto democratico è stata tolta anche lunedì 4 marzo, quando le attiviste hanno cercato di entrare e di accedere alla seduta pubblica, ma è stato loro impedito e soltanto una compagna in possesso di un tesserino da giornalista è riuscita a entrare e esprimere il nostro dissenso per poi essere cacciata fuori. In piazza abbiamo continuato a far sentire le nostre voci e la nostra indignazione. La nostra rabbia è risuonata con gridi di resistenza animale e abbiamo ribadito che ci schieriamo dalla parte di orse e orsi e che non staremo a guardare mentre questa strage si compie. Ora ricordiamo l'orsetto Nino, un orsetto che è stato recuperato, curato, ma non riemesso in natura a causa del clima d'odio verso la sua specie e ora è rinchiuso in uno zoo, il Bell Park a Spormaggiore, che tra poco riaprirà e non possiamo accettare che Nino diventi la nuova attrazione principale di questo luogo di prigionia. Per cui continuate a seguire la campagna Stop Casteller e a lottare contro questo sistema specista e violento. Puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 739 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.